c'è un posto solo dove andare, lì nessuno mai mi sente. Lì che il vento tra i capelli non l'ho avuto.